ever was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your... I nomi delle cose. La trasmissione della Coordinamento Femminista e Lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Of the watchware. She knows what's going on. Seems we got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. Ciao a tutte. Oggi dedichiamo l'apertura della nostra trasmissione a Mika, la capitana dei miliziani. Le battaglie di Moncloa, di Pineda de Humera, di Sigüenza, di Cerro de Alghira sono state comandate dalla capitana Micaela Feldman de ECBR, chiamata Mika. L'unica donna che guidò la milizia durante la guerra, una milizia durante la guerra civile spagnola. E ha una storia particolare. È nata nel 1902, era figlia di immigrati russi, il padre insegnava la lingua yiddish in una colonia ebraica. A 15 anni è entrata in contatto per la prima volta con l'impegno politico e non l'ha mai lasciato. Praticamente è stata l'unica comandante donna della guerra di Spagna, e l'impegno politico l'ha portata attraverso tutto il XX secolo a continuare quella che noi chiamiamo resistenza, e per questo abbiamo deciso di ricordarla, perché anche noi ci sentiamo parte di una grande storia. L'ultima battaglia l'ha combattuta nel 1968 a fianco di chi durante il maggio francese rivendicava libertà e rivendicava un mondo diverso. Tant'è vero che è passata alla storia un aneddoto per cui lei durante una carica e durante una di quelle azioni e manifestazioni del maggio del 68, mentre si tiravano i ciampietrini, ha detto a una ragazza che le stava vicino: guarda, mettiti i guanti, perché così poi avrai le mani pulite e nessuno ti potrà più accusare di niente. Mika era membro del PUM, in particolare del gruppo Kefer, che si richiamava esplicitamente al libro di Lenin Che fare. Il PUM significa Partito Obrero de Unificación Marxista, ed era di ispirazione marxista, ma il PUM ha una storia bellissima perché era fortemente perseguitato dallo stalinismo, e ne ha fatto una bellissima ricostruzione Ken Loach nel film Terra e Libertà. Ciao di nuovo, questa è sempre la trasmissione della Coordinamento Femminista e Lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, I Nomi delle Cose. E questa prima parte della trasmissione abbiamo deciso di dedicarla al 25 aprile, al quello che noi abbiamo chiamato il nostro 25 aprile. L'altro giorno, domenica sera, eravamo alla presentazione in spazio misto del libro Digitalis Purpurea delle compagne di Refe, e nel dibattito che ne è seguito, che poi è stato molto bello, una signora ha fatto una domanda. Ha detto: come mai le partigiane, che hanno avuto un ruolo così importante nella guerra di liberazione, poi non hanno saputo usare questa consapevolezza e questa libertà che avevano conquistato? Perché questo poi non è rimasto nella società, o comunque non ha portato a loro un qualche miglioramento, cambiamento? E questa domanda ci ha dato molto da pensare. Dalla discussione che è venuta fuori, quindi con le compagne e compagni alla presentazione del libro di Refe, sono venute quindi fuori alcune riflessioni riguardo quello che diceva prima Elisabetta, e da queste quindi riflessioni poi le abbiamo buttate giù e abbiamo scritto un volantino che poi daremo nelle varie situazioni in cui saremo presenti domani. E quindi ve lo leggiamo, ve lo leggo. Per un 25 aprile di genere e di classe. Molte donne hanno fatto la resistenza, molte sono state staffette, vivandiere, aiuto logistico, tante sono state in armi. Nelle situazioni emergenziali spesso i ruoli impostati dal sistema socio-economico e patriarcale vengono modificati, messi in crisi, se non ribaltati. Le scale di valori si ricostituiscono sul campo in equilibri e configurazioni diverse. Alle volte è lo stesso sistema a richiedere una temporanea modificazione dei ruoli, come nel caso delle donne chiamate a lavorare in fabbrica durante le guerre, quando tutti gli uomini sono al fronte. Altre volte, come durante la resistenza, è la necessità della lotta che porta a uno scompaginamento dei ruoli, compresi quelli di genere. Ma una volta finita l'emergenza, una volta tornata la cosiddetta normalità, si ripropongono prepotentemente i ruoli funzionali al sistema. Le donne vengono ricondotte nei ranghi, tutt'al più ottengono a cascata alcuni diritti. Questo è il senso del voto alle donne nell'immediato dopoguerra. Questo è il senso della legge sull'aborto dopo gli anni 70. I cambiamenti culturali sono il frutto delle lotte che tentano di incrinare il modello precostituito e non viceversa. Chissà quante volte rispedite a casa le donne della resistenza hanno sofferto di rabbia e di dolore perché avevano sperato e sognato. Le partigiane hanno messo in gioco la loro vita non solo per cacciare i tedeschi, non solo per abbattere una dittatura, ma contro l'ideologia fascista che, oltre ad essere uno strumento che la borghesia usa nei momenti di necessità, oltre ad essere violenza e prevaricazione, gerarchia razziale e sociale, è anche precisa collocazione della donna in un ruolo subalterno e di servizio, in una cultura fallocentrica e sessista. Il femminismo è antifascista, il femminismo è scardinamento dei ruoli su cui si basa questo sistema patriarcale e capitalista. e il femminismo è lotta di genere e di classe. Ci siamo chieste una cosa, abbiamo detto che le partigiane sono state staffette, vivandiere, ma sono state anche in armi. Diciamo che le partigiane in armi sono state poche rispetto alla percentuale delle partigiane che hanno partecipato alla lotta, e questo perché in effetti i ruoli non si riesce, sulla struttura patriarcale è molto forte, i ruoli non si riesce a scrollarseli di dosso, neanche le situazioni di emergenza sono, nelle situazioni di emergenza può succedere e succede, però non proprio fino in fondo. Tant'è vero che le partigiane che sono state in armi hanno fatto fatica a imporre questo tipo di ruolo, hanno dovuto dimostrarlo doppiamente sul campo. Vi leggiamo una testimonianza molto breve ma molto significativa di una donna della resistenza piemontese. È una testimonianza di Oliva Elsa in un libro che si chiama La resistenza taciuta, 12 vite di partigiane piemontesi, che è del 2003, però in effetti la prima volta è stato pubblicato nel 76. Questa partigiana dice: ho pensato di presentarmi come Croce Rossina, anche se non avevo mai fatto un'iniezione. Io volevo sparare, fare i combattimenti, ma certo quelli mi avrebbero detto: ma no! Daylight falls upon the path, the forest falls behind. Today I am not prey to dark uncertainty. The shadow trembles. I've robbed its blackness blind and tasted sunlight as my fear came clear to me. I think I understand. Stepping stones or sinking sand. Now the way leads to. E quindi anche all'interno della resistenza ci sono stati i ruoli, le donne li hanno subiti ugualmente, però sicuramente hanno preso molta consapevolezza, e il fatto stesso di doverli subire, di non poter fare quello che in effetti desideravano, è stato anche questo un momento di grande consapevolezza. Tant'è vero che nelle situazioni emergenziali ci siano questi ci sia questa decostruzione dei ruoli e questo spostamento, praticamente lo fa anche il sistema, nel senso che quando ci sono le guerre, per esempio, le donne vanno in fabbrica, come abbiamo scritto nel nostro volantino, gli uomini vanno al fronte, salvo poi ritornare nei ranghi appena la situazione emergenziale è finita. Ci chiediamo, questa è una domanda aperta, per esempio in altre situazioni di lotta emergenziali come quelle della lotta armata, che cosa sia successo rispetto ai ruoli di genere, ai ruoli sessuati. Noi sappiamo, perché la storia ce lo dice, che le donne hanno avuto delle posizioni di comando sia nelle BR in Italia sia in Action Directe in Francia, e anzi in Action Directe in Francia le donne erano tantissime, quasi in alcune situazioni quasi tutte donne, però ci chiediamo se questo, dopo la situazione emergenziale, ha portato per esempio un cambiamento nel loro personale, perché il sistema, dal punto di vista di sistema, ha ricostituito i ruoli e non c'è nessun tipo di salvezza, proprio perché la struttura socio-economica imposta la cultura e non viceversa. Di conseguenza, tutt'al più è stata una sensazione, una presa di coscienza personale. Però ci chiediamo come, in che modo, e questa è una domanda aperta. Stepping stones or sinking sand. E, a me veniva in mente una frase di Orwell, che diceva: finché non prenderanno coscienza non si ribelleranno, e finché non si ribelleranno non prenderanno coscienza, e che penso che un poco abbia a che vedere con queste situazioni, in cui comunque c'è anche da dire che secondo me la situazione emergenziale mette le persone comunque alle strette in qualche modo, insomma, quindi comunque si iniziano a prendere una coscienza e delle posizioni più nette, non si può più vacillare su delle cose, e quindi anche secondo me c'è una velocizzazione notevole di quelle che sono anche proprio le analisi teoriche, quindi forse anche a livello di quello che è l'analisi di genere può esserci un avanzamento lì per lì. Quanto poi questo però possa essere efficace o sostanziale una volta che questa situazione termina, questo appunto rimane un dubbio aperto, che, come diceva Elisabetta, insomma, chissà. I've opened up my heart, I never want to part. I'm giving you the ball. insomma, io pensavo anche, forse facendo un po' un volo pindarico, che in realtà la guerra comunque viene dopo un periodo ovviamente insomma di ricostruzione soprattutto del capitale dal livello industriale, cioè noi notiamo in Europa un investimento molto forte da parte degli industriali per ricostruire dopo la prima guerra mondiale. In questo contesto ovviamente ci sono varie tipologie di donne che possiamo trovare, ovviamente divise in due macro classi, la classe borghese e la classe povera. E, ovviamente nella classe povera in Italia, cioè, bisogna differenziare tra territorio urbano e territorio fuori dalle città, per cui ovviamente abbiamo un legame molto più stretto con la tradizione. E lì infatti durante la Resistenza le donne hanno subito molto di più. Pensiamo a parecchi stupri che sono avvenuti per colpa dei nostri alleati francesi che mandavano la legione straniera che risaliva dal sud Italia e saccheggiava e stuprava le donne dei paesi senza che nessuno dicesse né tantomeno l'esercito italiano né tantomeno i partigiani, nessuno parlava di questa cosa, tant'è che questo argomento è uscito fuori solamente diciamo recentemente, insomma, in maniera molto forte. Nel nord Italia, dove invece la resistenza era molto più forte, sia nelle città che nelle montagne, ovviamente c'era una presa di coscienza più forte, ma dovuta alla situazione reale e la condizione che c'era, cioè nel senso nessuno si poteva permettere di poter rimanere a casa a fare la calza, nessuno si poteva permettere di non fare niente. Quindi al di là del fatto che magari nel nostro immaginario le donne che ne so, che facevano le staffette non tenevano la pistola magari, sapevano comunque sparare e comunque dovevano attraversare controlli dei tedeschi tutte le volte che facevano là, quindi sinceramente penso che sia semplicemente una lettura che è stata data dalla storia, che sia stata data dal punto di vista maschile e non dal punto di vista femminile, perché basta veramente cominciare a fare qualche ricerca su quello che è stato anche il lavoro di queste donne, di queste compagne, e ci rendiamo conto che effettivamente non avranno avuto forse un fucile in mano, ma in realtà per quanto mi riguarda quella è da considerare lotta armata e comunque cioè, un comando importante, anche perché le comunicazioni erano talmente impossibili che al di là del comportamento maschilista che potevano avere gli altri partigiani, comunque poi loro erano responsabili di questi di queste comunicazioni, di questi passaggi comunque anche solo di cibo. E l'altra cosa che volevo dire per quanto riguarda la classe borghese, in realtà secondo me la presa di coscienza invece è molto molto più lenta, perché ovviamente si era più protetti rispetto alla condizione effettiva e reale della guerra, insomma ci si tutelava di più ovviamente, e questo ripeto è un volo pindarico e ovviamente è generalizzato perché insomma abbiamo pochi minuti, però mi viene sempre in mente, no, che per esempio Chanel, la stilista che si inventò, decise che le donne non si dovevano più mettere cose scomode, bustini eccetera, è il primo momento in cui la donna borghese prende coscienza del proprio corpo, tra virgolette, ovviamente prendete le mie parole con le pinze. E quindi in realtà secondo me questi due fenomeni della questione del corpo, quindi ciò che attraversa proprio fisicamente il corpo e il fatto che le donne effettivamente non vengono narrate nella storia, perché è proprio una questione di buco, di vuoto in cui le donne non esistono, se non veramente, come abbiamo detto anche molte volte parlando degli atti sulla memoria, esistono in quanto accanto a un uomo e basta. Se non c'è quest'uomo importante di cui parlare o se non c'è un avvenimento rinomato nei manuali, noi spariamo. E quindi forse dovremmo un po' più parlare di queste donne che invece la resistenza l'hanno fatta ed erano protagoniste per davvero, non penso che fossero così tanto seconde ai loro compagni. Avrete notato che abbiamo letto, che abbiamo scelto un abbinamento musicale provocatorio. E se ne deduce quindi che è evidente che i ruoli sono dettati dal modello socio-economico e non da posizionamenti personali, che la cultura è frutto del modello e non viceversa, e che si possono ottenere spostamenti anche importanti dal punto di vista dei diritti, perché la conseguenza di una lotta che ha messo in discussione le gerarchie di genere poi ha una ricaduta, e per esempio il voto alle donne nell'immediato dopoguerra. Però noi dobbiamo tradurre tutto questo all'attualità, nell'attualità, no? Per cui le nostre lotte dovrebbero cercare necessariamente di indagare i nodi su cui è costruito il nostro modello, cercare di scardinarne la funzionalità economica, e devono necessariamente legare genere e classe. Scorso abbiamo fatto un documento che diceva: siamo partigiane perché abbiamo scelto da che parte stare, e avevamo detto ci saranno commemorazioni e cerimonie in tutta Italia fatte da tutte le componenti partitiche possibili, da tutte le associazioni collaterali e satelliti, che si risolveranno in un teatrino utile ai politici di centrodestra, di centro, di centrosinistra per lavarsi la faccia. Quest'anno la situazione è peggiorata notevolmente rispetto a questa analisi, che pure è ancora vera. Perché? Per esempio, nella città di Pisa, tanto per darvi un'idea, nel 70° anniversario della caduta del fascismo, questa notizia l'abbiamo presa da dumbles.noblogs.org, il comune di Pisa decide di intitolare una strada al fascista Nicolai. Il fascista Nicolai è quello per cui è morto Franco Serantini. È stato ammazzato a 20 anni un ragazzo, un compagno anarchico, ucciso a Pisa nel 72 dalla polizia a calci e pugni durante una manifestazione antifascista in occasione del comizio di Giuseppe Nicolai, fascista. Poi che cosa fa il comune? Certo, per par condicio ne intitola una anche a un comunista e una a un democristiano. un comunista, un democristiano, un fascista. Sembra una di quelle barzellette tipo un italiano, un francese, un tedesco. E invece trista, tristissima politica. È un altro calcio a Franco, alla sua memoria e all'antifascismo tutto di ieri e di oggi. E per non farci mancare niente, due nuovi centri di identificazione ed espulsione sono stati aperti in Campania e Basilicata. Per questo nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile scorso è stata pubblicata l'ordinanza del capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, che stanzia 13 milioni e mezzo di euro per la costruzione dei CIE di Santa Maria Capo a Vetere, Caserta, e di Palazzo San Gervasio, la cui ultimazione è prevista per dicembre 2013. Solo per quello di Santa Maria Capo Vetere sono previsti 10 milioni di euro e per quello di Palazzo San Gervasio altri 3 milioni 530 mila euro. Quindi insomma mi sembra un ottimo modo per ribadire la nostra festa della liberazione. Certo, anche perché i lager nazifascisti vengono condannati in maniera del tutto così di facciata e vengono costruiti nuovi CIE per cui si trovano i soldi. Parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Femminismo e materialismo. Tanta parte del femminismo, almeno nelle componenti che hanno più visibilità e guarda caso sono accreditate dai media e anche tanta parte della sinistra, ha denunciato al materialismo come metodo di analisi e come strumento della prassi politica. Qui vogliamo concentrarci soprattutto sul femminismo, anche se per tanti versi è un procedere nell'analisi che riguarda anche la sinistra. C'è stato uno slittamento della lotta di liberazione femminista che si è andata ad arenare nelle secche dell'opinione pubblica. Questa scelta di avere una presunta, perché tale è, neutrale, asettica opinione pubblica come referente è, che ne dicano le ben pensanti, una scelta ideologica che produce contemporaneamente si alimenta del buonismo e del politicamente corretto. Si è rinunciato in nome del realismo, tra virgolette, ad ogni forma di lotta per la trasformazione reale dello stato di cose. Perciò il politicamente corretto ed il realismo sostituiscono la coscienza di genere e il nemico non è più la società patriarcale, ma la versione e la dimensione personale di questo o quel personaggio, di questa o di quell'area, declinato Berlusconi e il centrodestra. La preoccupazione principale è accattivarsi l'opinione pubblica elevata a giuria, che dovrebbe premiare le donne perché più buone o più brave, omettendo a pie pari rispetto a chi e a che cosa. per cui paradossalmente questa posizione di femminismo rinuncia alla coscienza di genere e al materialismo che indaga e svela la coscienza illusoria di se stessa e regala questi strumenti alla società patriarcale, visto che l'opinione pubblica non è altro che una costruzione dei media rispetto ai quali si sviluppa una forma di gregarismo che si cerca di colmare gridando a gran voce la propria collocazione elitaria. Da qui l'accettazione idealistica, nel senso che non attinge ai fatti, ma fa riferimento alle condizioni declinate, quando anche fosse presente, dalla meritocrazia. Per cui i temi specifici della nostra condizione di oppressione nella società, ora e qui, non sono l'occasione per affrontarla, ma sono l'alibi attraverso il quale ci si nasconde per non impegnarsi, in nome di una specificità della donna che viene trascinata in una lettura e una condizione esclusivamente femminile. Le donne con il movimento femminista hanno avuto per la prima volta a disposizione la possibilità di affrancare la loro condizione dalla sfera meramente naturale, di non ridurre il loro impegno a una dimensione esclusivamente emancipatoria. Utilizzando il materialismo dialettico abbiamo potuto fare a meno per la prima volta di legare la nostra liberazione ad un appello a dei principi etici e morali astratti, ad una disponibilità al dialogo della controparte, ma legando la nostra liberazione alla scienza della storia, al materialismo storico, utilizzando le gambe del materialismo dialettico con l'obiettivo, insieme fine e mezzo, della nostra liberazione. Ciao! Sono Stanis La Rochelle e ascolto Radio Onda Rossa, la radio meno italiana che c'è. Ciao, siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e come ogni ultimo mercoledì del mese la seconda parte della trasmissione è dedicata alla rubrica quel che non hanno il genere ma hanno la classe. E visto che oggi non c'è Dennis, ci ha mandato il suo contributo e quindi ve lo leggeremo noi. E il titolo del contributo è «Non è vero che i maiali non fanno la rivoluzione». Gli animali fanno politica e come? Innanzitutto perché anche gli umani sono animali e l'antispecismo, mi risulta, è teso all'abbattimento del dominio e della discriminazione basati sulla specie e la categoria sociale di specie. Un primo piccolo passo in questa direzione sarebbe riconoscere la nostra stessa animalità, seppur soffocata, taciuta e addomesticata, nonché appiattita in un concetto di umano che pretende di omogeneizzare individualità tra loro differenti, come il giorno e la notte, e spesso materialmente confliggenti. Anche gli animali non umani, poi, sono ben lungi dall'essere apolitici. Le reazioni di lotta o fuga messe in atto dagli animali oppressi appaiono ben consapevoli e volontarie. Essi subiscono gli effetti di condizioni materiali ben precise e chiunque riconosca loro la capacità di soffrire dovrebbe riconoscere loro anche la capacità di voler smettere di soffrire e dunque sottrarsi in primis alle relazioni sociali di dominio. Il finto eroismo pietista di coloro che, accecati dalla retorica del salvataggio, non si rendono conto di attribuire ai non umani teorie e pratiche proprie, come invece imputano all'antispecista e agli antispecisti non deboli, di fatto nega agli animali oppressi qualsiasi possibilità di autodeterminazione, col risultato che, se anche magicamente parlassimo tutti la stessa lingua, questi verrebbero comunque sovradeterminati. When they say our love won't last forever, they could be wrong. They could be wrong. They could be wrong. They could be wrong. We could be wrong. Hear me out, just hear me. Oh, hear me out, just hear me out. Oh, hear me out, just hear me out. Oh, hear me out. Trattasi dunque di una nuova teoria per un nuovo mondo, bensì dalla stessa vecchia teoria per lo stesso identico orrendo mondo di sempre. È vero, il soggetto politico principale dell'antispecismo finora è stato chi apparentemente è l'unica vittima dello specismo, i non umani, termini che, fra le altre cose, schiaccia una quantità infinita di esseri viventi in un appiattimento semantico che andrebbe quantomeno discusso e problematizzato, e che omogeneizza anche l'altro termine, umani, che tutto è fuorché omogeneo. E francamente no, non tutti gli umani hanno le stesse responsabilità nel perpetuarsi dell'ideologia e dello sterminio specista. Tuttavia, alla luce del fatto che razzismi, sessismi, fascismi e molteplici ismi, per autogiustificarsi, fanno abbondante uso di deumanizzazione e generalizzazione nei confronti dei soggetti che opprimono, creando tipologie standard di individui da marginalizzare ed opprimere. Chiunque si definisca antispecista, e per la precisione antispecista politico, perché ogni rivendicazione è una rivendicazione politica, dovrebbe prendere in considerazione all'interno della propria analisi anche questioni che esulano dall'idolatria di agnellini, tenuti in braccio da qualche randomico forzutissimo attivista in passamontagna, senza liquidare chi si oppone al dominio del sistema come una persona che ripropone quelle che verrebbero da taluni considerate come squallide categorie antropocentriche, oramai superate. Nelle occasioni pubbliche di cortei, dibattiti e quant'altro, coloro che lottano per la liberazione della propria e altrui animalità non possono tollerare la presenza di alcuni personaggi che includono la liberazione animale nel proprio oppressivo percorso militante, assumendo il ruolo paternalistico del salvatore che toglie la parola o il verso e l'espressione autonoma autodeterminata delle categorie di soggetti che esulano da un tipo umano ben riconoscibile. L'antispecismo debole presenta perciò il reale rischio di diventare la versione animalista del più famoso e tremendamente qualunquista "non esistono più destra e sinistra", appiattendo la questione antispecista sull'asse morale. Il nemico diventa un generico male da combattere e coloro che non hanno voglia di appiccicare i propri vaneggiamenti iperpragmatici e più deboli in assoluto sono additati come qualcuno che litiga per cazzate. Per certe logiche dovrei quasi scusarmi se oso dubitare dell'aspetto qualitativo della liberazione di chi ha dominato, domina e continua a dominare gli altri. E perché? Perché qualcuno ha stabilito aprioristicamente che la sacralizzazione dei non umani travestita da liberazione animale è un bene che va adeguatamente difeso da inenarrabili danni di presunte beghe umane. Paura. Forse non riuscirò a darti il meglio. Ho fatto i miei conti, ho scoperto che non possiedo di più. Come se non bastasse l'aver rinunciato a me stessa. Come promesse non bastasse tutta la forza del mio amore. E non ho fatto altro che sentirmi. Continuando, mi rifiuto di considerare valido un assunto di questo tipo. Sono femminista e non solo. Nella mia esperienza, dal basso delle mie oppressioni che subisco quotidianamente, assai spesso chi si fa vanto di agire per la protezione di chi che sia è proprio il primo ostacolo nella strada verso la libertà. Basti pensare alle leggi securitarie che vengono proposte e o realizzate per salvare le donne, alla voce in capitolo mai data alle ai sex workers in merito alla loro stessa occupazione, al neocolonialismo espresso ultimamente dalle femen e, non ultima, l'evidente maniera in cui la santificazione della donna, ben lungi dall'essere antisessismo, in realtà alimenta la sempiterna dicotomia santa puttana, caposaldo dell'ideologia patriarcale. Probabilmente potrei citare migliaia di altri esempi. Inoltre, gli stessi non umani non fanno esperienza unicamente dello specismo. L'assoggettamento delle femmine non umane dovrebbe essere ampiamente incluso nella critica femminista a questa società, come anche il trattamento riservato alle animalità froce, eliminate ed invisibilizzate perché del tutto non funzionali alla necessità di profitto, dunque di forze di riproduzione dell'eterocisnormatività capitalista, per dire. Continueremo noi ad essere coloro che vengono accusati, accusate di spaccare il movimento nonostante la quantità disarmante di merda sessista, razzista, omotransfobica precluda a tanti e tante l'entrata nella comunità antispecista e lo spacchi di fatto ogni giorno? Salvare gli animali non umani sarà l'obiettivo unico di animali umani privilegiati e ciechi di fronte alle oppressioni che gravano su molti loro simili e schiacceranno allo stesso modo le istanze di tutti gli altri animali considerati inesistenti o definiti a priori senza entrare nel merito di un reale sforzo di comprensione di un mondo animale vasto e al momento largamente incompreso? Alla luce di quanto ipotizzato, quello che più temo è che questi siano concetti del tutto incomprensibili a chi pare godere del privilegio maggiore, il lusso della monotematicità, quello di potersi occupare di una lotta soltanto. Dennis sta facendo un'esperienza e sta costruendo un blog insieme a un altro gruppo che si chiama Intersezioni, che potete andarlo a visitare intersezioni.noblogs.org, che ci spiegherà poi un giorno, prepareremo un approfondimento su quello che sta facendo, e intanto comunque potete andare a vedere di che cosa si tratta. E allora, quindi, visto che siamo arrivate alla fine di questa puntata, volevamo ricordare un po' di appuntamenti che ci sono per domani, anche non solo a Roma, ma insomma a tutta Italia. E partiamo insomma da un evento dello spazio Metia a Via Atri 6 a Napoli, che in cui domani alle 20:30 c'è la proiezione del documentario Bandite, che è proprio un documentario sul 25 aprile sulla Resistenza, cioè sul 25 aprile, scusate. E, e poi a seguire, vabbè, c'è un DJ set così. E ci sembrava interessante perché comunque insomma la premessa che loro fanno è questa: proviamo ad andare al di là del semplice ricordo e della commemorazione del come ci liberammo dalla dittatura fascista costruita d'arte dall'ingranaggio della memoria storica ufficiale e che trasfigura completamente il volto della storia, raccontandoci di una resistenza ridotta a simulacro dell'unità nazionale e sottraendo a quell'esperienza e alla sua dimensione collettiva l'enorme potenziale sovversivo che l'ha caratterizzata. Ripartiamo dal 25 aprile per analizzare e capire in profondità cosa è stata e cosa ha significato la resistenza, per restituirle dignità e ricostruire il filo rosso che lega la lotta di migliaia di donne e uomini antifascisti durante il ventennio a quella di chi oggi si propone di combattere le stesse logiche di sopraffazione, sfruttamento, repressione per incrinare gli stessi rapporti di dominio. Beale Street is coming down. Sweetie snack bars boarded up now. And Eagles, the tailor and the shine boys gone. Faded out. Tentando di mantenere questo filo rosso tra la resistenza e le lotte odierne, il comitato Nomuos il 25 aprile ha indetto una giornata di mobilitazione partigiana contro i lavori per la costruzione del sistema di telecomunicazioni militari statunitensi. L'obiettivo, spiegano i promotori, è quello di unire simbolicamente la resistenza partigiana con quella Nomuos. Se la lotta partigiana è stata una mobilitazione di massa di studenti, operai, antifascisti e semplici cittadini, la resistenza Nomuos deve riprendere il cammino tracciato da quelle lotte e renderle attuali. Un altro appuntamento è quello in Val di Susa del movimento NOTAV, intitolato 1945-2013, manifestazioni della Valle di Susa per l'anniversario della liberazione. Fedeli ai valori della resistenza e della Costituzione, per la pace senza frontiere, per il dialogo fra i popoli, per la giustizia e la libertà in tutto il mondo. E invece, tornando a Roma, diamo degli appuntamenti. Allora, domani a Valle Rifiorita, che è uno spazio liberato e occupato che si trova in via Torre Vecchia 156, vicino al Largo Millesimo. Dalle 13:30 ci sarà il pranzo sociale. Durante la giornata ci saranno DJ set, percussioni africane, rap noise, District Panther, un sacco di giochi per bambini, fatto dal Teatro Shosho, che sono un gruppo di ragazzi e compagni, che racconteranno appunto anche le favole al telefono di Rodari ai bambini. E poi la sera Spazio Oxygen, che organizza insomma la serata insieme a Valle Rifiorita, e ci sarà prima ricordi partigiani con Avio, che è un partigiano che alle 17:30 farà una chiacchierata, e alle 21:30 il Teatro Forsennato presenterà uno spettacolino che si chiama Gli ebrei sono matti. Bourbon laughter, ghosts, history falls to part. Allora, un'altra iniziativa invece sarà a Santa Maria delle Mole, alle 10:30, ci sarà un ritrovo in Piazza Togliatti a Santa Maria delle Mole per una passeggiata archeologica. Diciamo organizzata dall'Assemblea contro la cementificazione, e quindi nei luoghi dove è prevista appunto la cementificazione del territorio. A seguire, sempre a Santa Maria delle Mole, nel Parco Falcone, ci sarà una cena a sostegno delle spese processuali di diversi compagni e compagne che nel 2006-2007 si sono opposti alle iniziative di Fiamma Tricolore e Casa Pound ad Albano. E l'appuntamento quindi per questo pranzo sociale è alle 12:30 al Parco Falcone a Santa Maria delle Mole. Marino. Sì, perché se è sbagliata non è una cena, è un pranzo, Give it to me, true blue. When he's fallen to hard luck and time and other thieves, and my limo is shining on his shanty street, and furry sings the blue. E vi salutiamo ricordando i nostri indirizzi per scriverci: coordinamenta@autistiche.org, per andare a rivedere i documenti, le trasmissioni e tutto quello che postiamo. Il blog è coordinamenta.noblogs.org e le coordinamente domani, il 25 aprile, saranno nei territori insieme a tutte queste realtà, ognuna in quella in cui si rappresenta, nel territorio in cui è coinvolta, per portare i nostri documenti e i nostri volantini. E comunque a tutte un buon 25 aprile di lotta. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go asleep. Un ultimissimo appuntamento importante: ci sarà un corteo a Centocelle proprio domani alle 9:30 da Piazza delle Camelie fino a Casal Bertone, organizzato dai licei del 6° e 7° municipio insieme a tantissime altre realtà di movimento. Got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone to the other side with my encyclopedia. They must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life. Would just peel out the watchword. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution.